Amen. Amen. Quanti sono contenti di essere qui? Meno male, sto controllando tutte le mani che siano alzate. Non siete obbligati, lo sapete, no? Però io dico è troppo bello. È una delle riunioni che avevo più grossa aspettativa di fare, di vivere anche con la squadra dei settori, e quindi è veramente una gioia che possiamo unirci come intera leadership di Chiesa e dire siamo noi e stiamo facendo la storia, amen? E io credo che la squadra chiamata Chiesa, perché la Chiesa è una squadra, è la squadra più bella, la squadra che è più entusiasmante, la squadra per la quale vale vivere o morire, è la cosa più bella, quando la Chiesa di Dio è guidata dallo Spirito Santo, è la squadra più straordinaria che si possa vivere, e tu fai parte di questa squadra, ed è bellissimo, e io credo che il Signore ci ha chiamati come Chiesa a vivere questa ricca benedizione, la benedizione di essere parte di una Chiesa che ha tante persone che credono nel sogno di Dio, che credono in una visione grande, che vedono questa casa, questa chiesa, come quel posto ideale dove poter ricevere e portare salvezza, guarigione, liberazione, trasformazione e vittoria nella vita di molte persone. Questo è quello che noi crediamo, ed è mia convinzione che oltre questi che siamo noi, ce ne saranno tanti altri. Amen. Io ho fatto rimettere la locandina di Avanti Insieme per fare un po' un salto nel passato. Vi ricordate quando l'abbiamo usata questa locandina? Sono 2 mesi che sono pastore, poco più di 2 mesi che sono diventato pastore. I miei capelli bianchi sono aumentati. E ogni tanto mi guardo allo specchio e dico che altro mi aspetta ora, la caduta, perché chiaramente il passo successivo è la caduta, però no, scherzo, e sono stati 2 anni meravigliosi, assolutamente guidati da Dio, anzi è stato tutto un percorso meraviglioso, 2 mesi, non 2 anni, sono sembrati 2 anni a me, questa è la verità dei fatti, quindi sono stati solo 2 mesi. Però sono stati meravigliosi, guidati dallo Spirito Santo, e anche il percorso che ha preceduto questi 2 mesi è stato un percorso bellissimo. Ora, quando abbiamo vissuto il 26 aprile questo avvicendamento, abbiamo scelto un verso, è partito proprio dal cuore del pastore Pino questo verso, ed è il verso che troviamo in Filippesi 3:16: soltanto dal punto a cui siamo arrivati continuiamo a camminare per la stessa via. Non è bello? È proprio una bella spinta, un bel incoraggiamento ad andare avanti. Però oggi proprio pensavo a questo verso, dicevo, dal punto a cui siamo arrivati. E posso dire questo, fermiamoci un attimo. Siamo arrivati a un buon punto, vi rendete conto? Siamo arrivati davvero a un bellissimo punto. Se siamo qui è perché questo è il risultato di lavori, di un lavoro di anni. È stato il risultato di notti insonne, di tanta preghiera, di tanta fatica, di ulcere, di ricoveri ospedalieri, di tanto, tanto sacrificio da parte della coppia pastorale di miei genitori. Quindi io vorrei che noi onorassimo e non... e non dessimo per scontato tutto questo. Rendetevi conto di questo, direttamente o indirettamente, questa coppia ha creduto in te. Direttamente o indirettamente questa coppia ha investito su di te. Direttamente o indirettamente questa coppia ha affidato a te grosse responsabilità. E io credo che non possiamo sufficientemente ringraziare e onorare la coppia pastorale. E credo che in una occasione come questa è doveroso proprio sottolineare queste parole e dire da parte di tutti noi un forte grazie per tutto questo sacrificio, per tutti questi anni e tutto questo investimento di tempo e di salute. Quindi dopo abbiamo modo di abbracciarli, stropicciarli e ringraziarli, e non smettete di farlo perché è così importante. Ora, dal punto in cui siamo arrivati, andiamo avanti però, andiamo avanti insieme. E il motivo per il quale c'è questa riunione è proprio perché era proprio mio desiderio che ci fermassimo un attimo come leadership di chiesa e ci dicessimo: c'è strada da fare. C'è una strada da fare davanti a noi e Dio ha delle responsabilità per ciascuno di noi. Io voglio condividere alcuni punti, spero di non essere lungo questa sera, ma ho riempito 5 pagine di appunti, quindi ho tanto da dire, cercate di seguirmi in quello che ho da condividere. È un'occasione unica e quindi la devo sfruttare tutta, spero che non avete nessuno che vi aspetta a casa prima di mezzanotte, scherzo. Però ecco, una cosa che mio padre ha fatto in tutti questi anni è stato insegnare continuamente su un verso in modo particolare ha segnato la mia vita, ed è il verso di 2 Timoteo 2:2. Le cose che hai udito da me in presenza di molti testimoni, affidali a uomini fedeli che siano capaci di insegnarli anche ad altri. Capite perché noi siamo così numerosi qui questa sera? Il motivo per il quale noi siamo così tanti ad essere leader di questa chiesa è perché la coppia pastorale che abbiamo avuto finora e che continuano ad essere attivi ministerialmente ha creduto in questo principio, che è il principio che noi troviamo anche, se vogliamo, nella parabola dei talenti. No? E il primo verso che noi leggiamo nella parabola dei talenti in Matteo 25:14 è questo: poiché avverrà come a un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e, ascoltate bene, e affidò loro i suoi beni. Se c'è una lezione di leadership che questa sera noi tutti possiamo cogliere, è proprio quella che parte dall'esempio di Dio. Dio affida a noi i suoi beni e chiede a noi, 2 Timoteo 2:2, di affidarli anche ad altri. Il tuo obiettivo come leader... Quindi se c'è, qui abbiamo un cosa, no, sul palco, se c'è una cosa che dobbiamo fare come leader è mantenere vivo questa missione che il Signore ci affida, di guardare oltre noi stessi, di investire in altri leader, di investire in altre persone. È mio desiderio, e credo che esprimo il desiderio di ciascuno di noi, che questa sala presto sia insufficiente dal contenere il numero non di credenti della nostra Chiesa, ma il numero di leader che vogliono fare la differenza in questa regione, in questa nazione e nelle nazioni, impattando il mondo intero con l'Evangelo che il Signore ci ha affidato. Amen? Questo è il nostro sogno, il tuo obiettivo, prima ancora di fare quello che fai, è vedere già oltre a chi puoi affidare quello che già ti è stato affidato. Non perché ti devi liquidare, non perché devi andare in pensione, ma perché questa è una chiamata, e spero che voi possiate prendere appunto di queste parole questa sera, è una chiamata che il Signore continua ad affidarci come Chiesa. L'ha cominciato a fare con la coppia pastorale e noi continueremo in questo tragitto, in questo obiettivo, affidare in quello che ci è stato affidato, credere. Che cosa ho detto del pastore e della coppia pastorale? Che hanno creduto in noi, che hanno investito su di noi e che hanno affidato a noi responsabilità. Questo è quello che noi dobbiamo fare. Noi tutti dobbiamo continuare a credere in altri, investire su altri e affidare ad altri. Amen? Siamo d'accordo su questo? Potete dirlo pure alla vostra faccia? Un bel sorriso, una bella... siete d'accordo? Ora, questa era solo l'introduzione, quindi pensate un po' dove andiamo a finire questa sera. Io voglio vedere tre aspetti, tre sfaccettature diverse di quello che noi facciamo. Okay? Ciascuno di noi ha delle responsabilità, ha dei compiti, ha una leadership. E ciascuno di noi è estremamente concentrato su questa parola. sul cosa facciamo, no? Tutti noi sappiamo perfettamente, almeno spero, che cosa stiamo facendo, no? Se io dovessi chiedere a Carlo, Carlo, qual è la tua responsabilità in chiesa? Responsabile del mixer. Ecco, allora, tutte le lamentele che avete è a lui che dovete andare. Scherzo, tutto l'esatto opposto. Tutte le volte che si sente bene, c'è buona musica, andate a ringraziarlo. Se avete delle lamentele, venite a me. Anzi, no, è ancora attivo il pastore ministerialmente. Lui vuole essere attivo e quindi andate a lui a criticare. Vediamo, chi altro c'è? Rosa. È un gruppo delle donne. Un gruppo delle donne, un gruppo in casa, familiare. Sì. Quante donne? Una decina. Una decina di donne, che bello, lei porta avanti? La maggior parte sono anziani. Che bello, vogliamo fare un applauso a Rosa? Quanta pazienza ci vuole, quanto investimento, quanta fede anche, quanto sostegno, quanto incoraggiamento che deve avere questa donna per guidare 10 donne anziane, che bello. E potrei andare avanti con tantissime persone. Chris, tu che sei in prima fila, di cosa sei responsabile in chiesa? Sono collaboratore in 2 gruppi, dei giovani. Non ti bastava uno? 2. Quanti giovani sono in questi gruppi, tutti e due? Tutti e due insieme fanno una ventina forse di giovani. Una ventina di giovani. Io mi ricordo che venivamo chiamati pastori per guidare 20 giovani. Invece lui è semplicemente un collaboratore di gruppi che portano avanti i giovani. Non è bellissimo. Ora, la maggior parte delle nostre riunioni, quello che facciamo quando ci incontriamo, quando organizziamo, i feedback che abbiamo, no? Ci sono dei gruppi che sono strutturati talmente bene, con talmente tanta eccellenza, che fanno una verifica poi di quello che fanno e quindi raccolgono anche i feedback, no? Per capire come siamo andati, come è andato, tutto quello che è, la maggior parte del tempo che noi investiamo e degli sforzi è sul cosa. Cosa stiamo facendo? Cosa ci impegna? Cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo migliorare? Cosa devo risolvere? Cosa posso aggiungere? Cos'altro possiamo fare? Però io questa sera voglio incoraggiare ciascuno di noi a vedere un altro aspetto, ben più importante, altri due. Quindi voglio invitare i due Antonio, gli Antoni, a svelarci quello che è il punto successivo che voglio condividere con voi. Come? È mia convinzione che se vogliamo migliorare il cosa, dobbiamo assolutamente concentrarci sul come. È una cosa fondamentale. Il come ci parla della cultura di chiesa. Come parliamo? Come viviamo quello che viviamo? Come incoraggiamo? Come correggiamo? Da quale spirito siamo mossi? Anche questo è il come. Io non so se vi è mai capitato di ascoltare, di sentire quel detto che dice l'operazione è riuscita, ma il paziente è morto, no? E molto spesso può essere così, può essere vero questo in chiesa, che facciamo in maniera eccellente il cosa, ma tralasciamo il come. E quindi quel cosa perde il suo valore perché non ci siamo fermati abbastanza a riflettere su come fare quella cosa, quale attitudine avere. E la mia domanda a te è questa sera, ti stai preoccupando dell'atteggiamento che hai, dello spirito che ti muove a fare quello che stai facendo? Stiamo cercando di riflettere costantemente il carattere, l'attitudine e il cuore di Cristo? Perché questa è una cosa fondamentale agli occhi di Dio. Per Dio è importantissimo che non solo quello che facciamo sia fatto bene, ma anche come lo facciamo rifletta la cultura del regno di Dio. Ora c'è un altro aspetto però a cui voglio dare attenzione, arriviamo a questo in un minuto, Prima di questo, io non so se vi è capitato mai di fermarvi con delle persone che vengono per la prima volta in chiesa. Io spesso amo fare la domanda alle persone che vengono per la prima volta in chiesa: cosa hai vissuto? Cosa ti è piaciuto? E lo faccio in modo particolare quando ho predicato io, no? Con quella speranza di sentire il messaggio è stato fenomenale. Tu hai portato una parola da parte del Signore che ha stravolto la mia vita. E mio rammarico, molto spesso le persone nuove che vengono a trovarci non sono tanto colpite da quello che il predicatore di turno può dire, ma dalla cultura che noi viviamo. Non so se vi è capitato, però a me le risposte che arrivano sono estremamente sconvolto da come vi volete bene, da come sinceramente vi sorridete, da come vi salutate, da come parlate. Recentemente, qualche giorno fa, mi sono fermato con una persona non credente ancora, lo sarà nel nome di Gesù, e ho parlato del Signore a lei, e lei mi ha detto: io sono colpito dal fatto che voi sapete ascoltare veramente. Che bella cosa, no? Questo riflette il carattere di Dio, questo riflette la cultura del regno. Dio sa ascoltare, Dio ci ascolta, e come se ci ascolta. Quindi come facciamo è estremamente importante, ed è qualcosa che noi dobbiamo mettere sempre davanti, anche nelle nostre riunioni. Leader, vi incoraggio, nei vostri feedback, non vi concentrate solo, non ci concentriamo solo e unicamente su quello che stiamo facendo, ma concentriamoci anche su come lo stiamo facendo. Dov'è il nostro cuore? Come sta il nostro cuore? Se posso farti questa domanda stasera, io ti domanderei a tu per tu proprio: come stai realmente? Quello che stai facendo lo stai facendo da un cuore che vuole a tutti i costi onorare Dio, da uno spirito che è alleggerito, da uno spirito che è in sintonia con lo Spirito Santo. Questo è fondamentale. Però c'è un aspetto ancora più importante sul quale ci soffermeremo per le prossime 2 ore e mezza, ed è il perché. Quindi voglio invitare a mettere quest'altro... Quest'altra pedana, e la metteremo in cima agli altri due. Vediamo se i muscoli lo permettono e l'equilibrio anche. Il perché facciamo quello che facciamo è qualcosa di fondamentale. Me lo vedo proprio in bilico, ragazzi. Non è che voglio mettere in discussione il cosa o il come, però non c'è un perché questa pedana. Prova a muoverlo un po', Anto, non vorrei che mi cadesse... vedete Fabio com'è preoccupato della pedana che stia in piedi, eh? Va bene. Beh sì, dai, ci fidiamo. Al massimo, Anto, rimani là tutta la sera. No, scherzo. Vogliamo fare un applauso a questi due. Perché? E qui c'è proprio la riflessione più importante. Perché? Perché fai quello che fai? Perché faccio quello che faccio? Questa è la cosa che veramente dovrebbe stare in cima, al top delle nostre domande, al top dei nostri ragionamenti, al top delle nostre riunioni. Perché facciamo quello che facciamo? Perché sei responsabile dell'accoglienza? Perché fai l'eccellenza? Perché ti occupi dei gruppi? Perché sei lì alla tastiera? Perché sei responsabile del mixer? Perché facciamo quello che facciamo? Questa è la domanda più importante, e io spero che noi possiamo mettere veramente un solido fondamento o rafforzare questo fondamento che abbiamo come Chiesa rispondendo alla domanda perché. C'è qualcuno che mi sa dire perché come Chiesa facciamo quello che facciamo? Per onorare il Signore, ok? Per dare Gesù agli altri? Perché Gesù ce lo chiede, amen? Bellissimo. Anna, vuoi salire qui sopra? Vogliamo fare un altro avvicendamento di chiesa? Grazie Anna. Quale altro perché vi viene in mente? Perché lo vogliamo servire? A chi? Anna, hai bisogno del microfono. Perché il Signore ha piacere a farlo con noi, perché potrebbe farlo da solo e invece vuole servirsi di noi che siamo la sua Chiesa, per dimostrare agli altri che siamo il suo corpo. No? Che altro perché vi viene in mente? Per gratitudine, bellissimo, per adorare Dio, ringraziarlo. Che altro vi viene in mente? Perché fai quello che fai? Perché non potrei farne a meno? Bellissimo, sono proprio d'accordo. Mi fa sentire in comunione con Cristo. Ludo. Come? Perché creò tesori in cielo. No? Amen, sì. Per quella che è una visione eterna delle cose. Che altro gli viene in mente? Per testimoniare. Che significa per testimoniare? Mo ti sei messo in prima fila e allora te l'ho detto che era rischioso. Per dare agli altri quello che Dio ha dato a noi. Amen. Amen. Per amore. Bellissimo questo. Per amore. Che altro? C'era qualche altra mano lì? O sbaglio? Fabio. Perché crediamo nel valore dell'altro? Perché Dio non è solo per me. Amen. Perché fai quello che fai? Perché facciamo quello che facciamo come Chiesa? Luigi. Perché qualcuno me l'ha chiesto. E questo da un punto di vista biblico, dove lo trovi? Beh, io credo nella sottomissione anche, no? C'è, la Bibbia parla di sottomissione, quindi anche perché qualcuno ce lo chiede, facciamo le cose che facciamo. Non è la motivazione che spinge Luigi a fare quello che fa. Non è l'unica motivazione che spinge Luigi a fare quello che fa, ve lo assicuro. Per quale altra ragione? Io, ragazzi, allora, ho avuto questa esperienza negli ultimi 2 mesi, che mi è stata affidata la squadra, no, pastorale. E quindi nella squadra pastorale, nella squadra dei settori, ci sono bellissime persone, le conosciamo tutte, e poi c'è Angela. Ci sono bellissime persone e poi c'è Angela. E quando io faccio una domanda, tutti rispondono delle bellissime risposte, però poi c'è Angela e risponde esattamente, non lo so, legge nel cuore. Qual è la visione di Chiesa, Angela? Il motto di Chiesa, lo vogliamo ripetere insieme? Un popolo impegnato? Amen. Di chi è questa visione? Del pastore Pinuccio? Di chi è questa visione? Ci sono pareri contrastanti. Di chi è questa visione? Di Gesù. Di chi è questa visione? Della Chiesa. Di quale Chiesa? Della nostra Chiesa. Questa sera, grazie Cassiana, questa sera io voglio sfatare qualcosa. Quando noi pensiamo al motto di Chiesa, a volte noi pensiamo che questa è la visione che Dio ha affidato alla Chiesa a pieno Vangelo di Modugno. E non sbagliamo nel dire questo. Ma quello che io vorrei che noi comprendessimo è che il valore del motto è molto più profondo. Perché se fosse solo una rivelazione che Dio ha dato al pastore per la nostra Chiesa, ci sta. Però se noi andiamo ad analizzare il motto di Chiesa, ci rendiamo conto che il motto di Chiesa racchiude quello che è il desiderio, è la chiamata, è la visione che Dio ha per la Chiesa tutta, per ogni Chiesa sulla faccia della terra. Tutte le Chiese sono chiamate ad essere un popolo, tutte le Chiese sono chiamate ad essere adoratori, Tutte le chiese sono chiamate ad essere delle persone che amano Dio e amano il prossimo. Tutti i credenti sulla faccia della terra sono chiamati a rispondere al grande mandato. Tutti i credenti dovrebbero avere consapevolezza che siamo chiamati a fondare, a costruire una grande chiesa, perché Dio vuole raggiungere tante persone e tutti i credenti dovrebbero sapere che la chiesa è per la gloria di Dio. Io voglio sfatare questo mito che noi abbiamo l'esclusiva. Noi non abbiamo l'esclusiva come chiesa del pieno Vangelo, noi non siamo gli unici, i speciali, no? Quel gruppo unico sulla faccia della terra al quale il Signore ha voluto rivelare la sua visione. Questa è una visione che appartiene e che dovrebbe essere il mandato di ogni chiesa sulla faccia della terra e della Chiesa universale. Perché abbiamo un motto? Perché il nostro motto è stata la scelta di decidere di seguire e di prenderci responsabilità su questa visione. Perché abbiamo un motto? Perché il pastore ha messo nero su bianco queste parole? Perché il pastore ha deciso con la Chiesa di sposare una causa. Quando noi citiamo, quando noi pensiamo, quando noi scriviamo, quando noi insegniamo sul motto della Chiesa, non stiamo insegnando su qualcosa che è gelosamente nostra. Noi stiamo insegnando su quello che è il fondamento biblico che dobbiamo vivere come Chiesa e che noi abbiamo scelto di sposare al 100%. Il motto è un modo per dire: noi questa cosa la vogliamo fare. Dal momento in cui il pastore l'ha avuta, è stato un modo per dire: noi come Chiesa esistiamo per fare la volontà di Dio come Chiesa. Quindi io vorrei che a partire da questa sera noi vedessimo il motto con altri occhi, come un impegno, come una dichiarazione d'intento, come uno sposare una causa e un abbracciare un perché, che è la cosa più importante. Ora, io voglio condividere con voi, per concludere, 4 punti che hanno a che fare con il perché. Il perché è importante. Quando noi comprendiamo il perché facciamo quello che facciamo, è importante perché, avendo in cima alle nostre priorità il perché di quello che facciamo, allora riusciamo meglio a fare squadra. È il punto primo. Il primo aspetto che noi tocchiamo questa sera è il fare squadra, perché come Chiesa noi siamo caratterizzati dal vivere ogni cosa come squadre. Noi non crediamo in un lavoro e in un gioco da solisti. Noi crediamo in quello che è un lavoro di squadra. Perché? Perché riflette gli attributi di Dio, la caratteristica di Dio. Dio è una squadra. Lui singolarmente è 3 in 1. Gesù è stato in piena autorità e in piena sottomissione quando è stato su questa terra. Non ha fatto mai niente di suo e si è confrontato con il Padre continuamente nel fare quello che ha fatto. In più noi crediamo che ci sono sufficienti evidenze nella parola di Dio che ci dimostrano che la Chiesa dall'inizio è stata una squadra. La Chiesa è una squadra. La Chiesa, quando tu leggi negli Atti degli Apostoli, nelle lettere, ti rendi conto che non è mai il lavoro di un singolo, è sempre il lavoro di una squadra. E questa è la nostra maggiore sfida, il nostro tormento più grosso. Sicuramente a tratti può essere estremamente difficile fare squadra, a tratti potrebbe essere qualcosa che rallenta le cose. Quando noi ci concentriamo su cosa fare, molto spesso è facile dire: facciamolo da soli. Perché quando tu fai le cose da sole, io sono una persona che tendenzialmente riesce meglio a fare le cose da solo, perché so che se la faccio da solo la cosa, la faccio subito, la faccio bene e so dove arriverò. Ma questo non riflette la parola di Dio. Noi siamo chiamati a collaborare e a lavorare sempre in squadre. Come possiamo lavorare meglio in squadra? Concentrandoci sul perché. Nel momento in cui tu ti concentri sul perché stiamo facendo quello che facciamo, riesci meglio a collaborare e a lavorare in squadra. Se ti è difficile, se è una cosa che non riesci a fare, ci sono 2 cose che puoi fare. Se non sai lavorare di squadra, ci sono 2 cose che puoi fare. La prima è: impara a lavorare di squadra. Lo so, è un po' scontato, voi eravate qui in attesa di grosse chicchette. La seconda è: impara a lavorare di squadra. Ci sarebbe una potenziale terza, che quale credete sia? Impara a lavorare di squadra. Se non sai lavorare di squadra, se hai difficoltà a lavorare in squadra, la soluzione è questa: impara a lavorare di squadra. Impara, si impara a fare tutto, si impara ogni cosa, e se la parola di Dio ci chiama a fare squadra, se Dio ci chiama a fare squadra, evidentemente Lui ci permette di funzionare in squadra. Ci sarebbe una quarta possibilità. Impara a lavorare di squadra. E la quinta è, se proprio dobbiamo arrivare, cambia chiesa. Perché noi, noi come chiesa funzioniamo solo così. Non ci sono solisti. Noi non crediamo nei solisti. E se tu pensi di poter fare qualcosa in questa chiesa perché hai doni, hai talenti, hai capacità, noi crediamo in tutti i tuoi doni, noi crediamo in tutte le tue capacità, noi crediamo in tutti i tuoi talenti, ma se non sai lavorare di squadra, non farai niente in questa chiesa. Detto molto chiaramente, perché noi funzioniamo lavorando in squadra. Puoi essere in autorità solo e unicamente se riesci ad essere anche sottomesso. Puoi guidare qualcosa solo e unicamente se ti lasci anche guidare. Puoi avere una responsabilità su qualcosa in questa chiesa, e vi assicuro, ci sono tante responsabilità, tante. Se hai bisogno di una responsabilità in più rispetto a quella che già c'hai, vieni da me, ti prego. Abbiamo una lista di cose che si devono fare, di responsabilità che si dovrebbero prendere. Se hai voglia di prendere una responsabilità in più, ce n'è abbastanza per tutti, ce n'è per molti altri, per quanti ne possiamo immaginare. Ci sono tante di quelle responsabilità che possiamo prendere, però tu puoi avere responsabilità su qualcosa solo se riconosci di essere parte di un insieme. Solo se riconosci che devi necessariamente collaborare con altri, che non sei solo tu, la tua responsabilità, il tuo settore, il tuo talento, le tue capacità, il tuo dono. Non sei tu, siamo noi. Amen? Mi ha impattato grandemente leggere la storia dei quattro amici di cui ho predicato, no? Dei quattro amici che portano il paralitico davanti a Gesù. E mi ha impattato perché ho cominciato a pensare a quanto questa storia riflette esattamente la Chiesa. Pensate un po', noi come Chiesa, uno dei nostri obiettivi, forse fra i più importanti, è portare proprio le persone a salvezza, a guarigione, davanti a Gesù. Questa è la priorità più grande che noi abbiamo. E questa storia ci racconta di come questo è stato possibile in quell'occasione, perché hanno lavorato di squadra, perché erano in quattro e tu hai bisogno di una squadra esattamente come loro hanno avuto bisogno di una squadra, perché tu da solo non puoi fare quello che con una squadra puoi fare. Quel paralitico, quelle persone che non conoscono ancora il Signore, quei giovani che sono persi, quelle famiglie che sono rovinate, quelle coppie che sono separate, quelle persone che vivono nella dipendenza, tutta quella folla di gente, Modugno, Mottola, la regione Puglia, l'Italia, le nazioni, hanno una sola speranza, che la Chiesa vada avanti insieme, che la Chiesa faccia squadra per portare ognuno la propria estremità del lettuccio e insieme collaborare per scoperchiare quel tetto e calare quelle persone davanti a Cristo. Se il tuo cuore vedere i tuoi parenti salvati, se il tuo cuore vedere i tuoi amici salvati, e questo è il perché, comprendi bene che quello che devi fare è lavorare di squadra. Il secondo punto, quando noi mettiamo al primo posto la domanda perché, e lo mettiamo in cima al cosa e al come facciamo quello che facciamo, quello che ci riesce molto meglio è guardare oltre il nostro ruolo. Questo è il secondo punto. Quando noi siamo concentrati sul motivo per il quale facciamo quello che facciamo come Chiesa, riusciamo meglio ad andare oltre il nostro ruolo. Che cosa voglio dire con questo? Che è estremamente facile per noi come leader aspirare a quello che è un ruolo, a quella che è un'etichetta, a quella che è una posizione, a quello che è un riconoscimento da parte degli altri. E questo perché siamo incentrati su quello che vogliamo realizzare e come lo vogliamo realizzare, e siamo egocentrici, ce lo possiamo dire. E tutti noi come leader abbiamo questa tendenza e questo rischio a concentrarci estremamente sul nostro ruolo. Vuoi capire, vuoi comprendere meglio come andare oltre quello che è il rischio di vivere tutto incentrato sul ruolo che devi coprire? Allora comincia a chiederti perché facciamo quello che facciamo. Nel momento in cui tu comprendi la causa, il motivo che spinge ciascuno di noi a fare quello che facciamo, quando tu comprendi questo, riesci a dare molto meno valore a quello che è il tuo ruolo. Riesci a non essere legato così gelosamente a quella che è la posizione, il riconoscimento da parte degli altri. Io voglio leggervi le parole di Giovanni Battista, quando i suoi discepoli a un certo punto hanno visto che Gesù e i suoi discepoli battezzavano a poca distanza da Giovanni Battista e sono andati a Giovanni a dire questa cosa. E vedete Giovanni cosa dice, lo troviamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 29 e 30. Giovanni Battista dice come risposta ai suoi discepoli: colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente e lo ascolta si rallegra vivamente alla voce dello sposo. Questa gioia che è la mia, sentite l'umiltà di quest'uomo, è ora completa. E poi aggiunge: bisogna che egli cresca, riferito a Gesù, e che io diminuisca. Che possa essere questo il nostro modo di pensare e di ragionare. Vedete, Giovanni Battista non era gelosamente legato al ruolo che ricopriva, al riconoscimento che aveva, ed era grosso. Amici, fratelli, sorelle, collaboratori, leader della Chiesa, il ruolo di Giovanni Battista era enorme, era molto più grande di quello che ciascuno di noi sta ricoprendo in questo momento. Aveva una visibilità enorme nel popolo di Israele, eppure a questo punto lui dimostra che non è legato al riconoscimento, alla posizione, all'etichetta, al ruolo che c'ha, ma è legato a quella che è la causa, è innamorato profondamente dello scopo per cui viveva: vedere le persone salvate. Nel momento in cui tu dai accento, importanza e attenzione al perché si fa quello che si fa, tu riesci ad andare più facilmente oltre il ruolo. Riesci, punto 3, a riconoscere il valore dell'altro. Riesci a riconoscere il valore dell'altro, perché cominci a vedere: Giovanni sta facendo esattamente quello che io desidero. Lo sta facendo forse male, lo sta facendo forse in una maniera che è criticabile, come lo è criticabile per ciascuno di noi se ci guardiamo attorno, abbiamo sempre qualcosa da ridire sull'altro, ma grazie a Dio per Giovanni, grazie a Dio che lui c'è ed è qui per una ragione, per portare avanti l'Evangelo, per portare avanti il regno di Dio. Quando tu comprendi che il perché è più importante, riesci a riconoscere più facilmente il valore che c'è nell'altro. E fatemi dire questo: ogni persona che è qui presente in questa stanza, questa sera, e molti altri anche, logicamente, che non ci sono qui questa sera, sono mossi e sono motivati dallo stesso desiderio di vedere persone salvate e vite trasformate che hai tu. Questo ti aiuta a onorarle. Questo ti aiuta a riconoscerlo, questo ti aiuta a capire che il tempo che loro stanno investendo, le energie che stanno mettendo in quello che stanno mettendo, ha valore. Noi siamo una squadra. Se l'altro fallisce, tu fallisci. Se l'altro ha successo, tu hai successo. A volte nella nostra insicurezza cerchiamo di mettere un po' in risalto quelli che sono i difetti dell'altro, perché purtroppo nella nostra carnalità crediamo che abbassando l'altro cresciamo noi. anche agli occhi degli altri. E possiamo essere sinceri, questo nella vita di chiesa succede troppo spesso. Io sono il primo. E quando ci fermiamo, usciamo, parliamo, e c'è qualcuno che sta facendo qualcosa, e magari sì, sta facendo qualcosa e non la sta facendo perfettamente bene, perché nessuno di noi fa le cose perfettamente bene, nella mia insicurezza sono portato a screditarlo per crescere io. Non lo facciamo. Tu hai valore, come quella persona ha valore, e nessuno di noi dovrebbe criticare l'altro per una forma di insicurezza che abbiamo in noi stessi. Sii sicuro di quello che il Signore ti ha affidato e valorizza l'altro, onora l'altro. Quello che io ho fatto questa sera con la coppia pastorale è qualcosa che non fa bene solo a loro, è qualcosa che fa bene a me, riconoscere che sono parte di qualcosa che è più grande. Riconoscere che non sono solo in quello che sto facendo, sono parte di una squadra meravigliosa, di persone stupende e di una chiesa che crede in sogni e li realizza per davvero. Ultimo punto, concentrarci sul perché ci aiuta a sostenere e favorire il cambiamento. Quello che noi facciamo oggi come Chiesa, ne siamo consapevoli, soprattutto le persone che stanno da più anni in Chiesa, da più decenni alcuni, no? In mezzo a noi stanno in Chiesa. Ed è chiaro agli occhi di tutti noi che quello che facciamo oggi è molto diverso da quello che facevamo ieri. Giusto? Siamo d'accordo su questo, no? E sapete una cosa? Quello che faremo domani sarà molto diverso da quello che facciamo oggi. Ed è indispensabile comprendere che la crescita passa attraverso il cambiamento. Noi possiamo crescere come Chiesa solo e unicamente se accettiamo il cambiamento. E io so che per ciascuno di noi, non solo per una fetta della Chiesa, non solo per alcuni leader, per ciascuno di noi, per quelle cose nelle quali abbiamo investito la maggior parte del tempo, per le quali abbiamo sognato, abbiamo dato, abbiamo sputato sangue, sudore, abbiamo dato tutto noi stessi, e che si sono create e poi dall'oggi al domani spariscono, no? Vengono cambiate. Questo è qualcosa che noi tutti viviamo con rammarico, con pesantezza, con difficoltà, ma il cambiamento è necessario, perché noi non siamo legati al cosa, vedete, il cosa sta già cadendo. Ad uno c'è un effetto speciale, no? Ora è rimasto l'osa. Potrebbe nascere un altro insegnamento su questo. Il cosa letteralmente deve crollare. Domani noi dobbiamo, non possiamo, non potremo. Noi domani dobbiamo cambiare le cose. Noi dobbiamo fare la Chiesa in una maniera diversa rispetto a come la facciamo oggi. Dobbiamo avere un cambiamento, e l'unico modo per affrontare il cambiamento nelle nostre vite, e questo vale per ciascuno di noi, è comprendere che il cosa e il come potranno cambiare, ma il perché non cambierà mai. Amen? Noi manteniamo lo stesso perché noi abbiamo sposato una causa, che è la causa di Dio, di rispondere al grande comandamento, al grande mandato, di essere una grande chiesa, di essere un popolo di adoratori. Amen? Vogliamo alzarci in piedi. Io voglio invitare anche Fabio a venire. Io vorrei concludere questo insegnamento, questo incoraggiamento, questo stimolo che ho voluto dare anche per questa nuova stagione. Perché è una nuova stagione quella che noi stiamo vivendo? È una nuova stagione di Chiesa. E poi io so che molti di noi stanno vivendo una nuova stagione anche nella propria vita personale. C'è un nuovo capitolo che si sta aprendo. Ci sono nuove cose che si stanno presentando all'orizzonte. E noi tutti siamo davanti a questo cambio di stagione che è solo possibile vivere se prendiamo di nuovo quell'impegno di sposare la causa, di abbracciare il perché che Dio ci ha affidato. E io questa sera voglio fare proprio un appello a ciascuno di noi. Vuoi impegnarti? Vuoi impegnarti a dire io voglio riprendere l'impegno nella mia vita? Non a vivere una vita che è dedicata a un cosa al quale sono affezionato, non a vivere una vita che è determinata da un ruolo che ricopro, ma a vivere una vita che è determinata dal perché, da quella causa che Dio mi ha affidato. Questa sera io vorrei che noi prendessimo di nuovo proprio in seria considerazione quel passo che Gesù, quelle parole di Gesù che lui dice: se uno vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Io credo che questa sera noi dobbiamo riconfermare a Dio nella nuova stagione che ci sta davanti, riconfermare a Lui e dire: io voglio diventare secondo, voglio tornare a mettere te al primo posto, voglio vivere per una causa, voglio vivere per quel perché, voglio amare veramente, voglio servire veramente, voglio fare discepoli, voglio vedere il mio cuore trasformarsi ed essere il cuore di un adoratore. Dobbiamo chiudere i nostri occhi. Vogliamo stare un tempo in preghiera, in silenzio, ognuno per conto proprio. Io credo che gli stimoli che il Signore ha voluto dare a noi questa sera erano davvero tanti, però forse tu ne dovevi abbracciare e afferrare uno. Allora in questo momento prendi un impegno davanti a Dio e di: io voglio afferrare quello che tu mi hai voluto dire, io lo voglio vivere al 100%, io voglio rimettermi in carreggiata, voglio rinunciare a me stesso, voglio prendere la mia croce e voglio seguirti, voglio sposare la causa, voglio fare del motto il mio motto, la mia dichiarazione d'intento, voglio fare di questa visione la mia visione, il motivo per il quale io vivo, il motivo per il quale investo il mio tempo, il motivo per il quale investo i miei risparmi, il motivo per il quale investo i miei talenti, il motivo per il quale domani mattina mi voglio svegliare, la prima ragione, la più importante, la visione che tu mi affidi. Vogliamo pregare.